con Filippo Taglieri di Recommon per parlare dell'appuntamento dal titolo Estrattivismo, voci e storie della distruzione tra Italia e Messico, a cura di Recommon e il Nodo Solidale, sabato 2 marzo 2019 al Cine de Tour a Roma. Filippo, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Ci racconti? Certo, abbiamo approfittato di un invito che avevamo fatto a un'attivista messicana che si chiama Anna Valadez Ortega e ci interessava molto continuare il nostro discorso sull'estrattivismo come sistema che adesso il capitalismo sta adottando più e in maniera più violenta rispetto al passato e più sistemica, partendo dalla corruzione, dal potenziamento degli apparati statali che si occupano di repressione, fino all'impunità di chiunque utilizzi l'estrattivismo in ogni territorio per distruggere e sostituire usi e costumi con lavoratori o sfruttamenti vari. E niente, quindi approfittare di Anna Valadez per noi era importante perché secondo noi può creare questo collegamento. E approfittiamo anche della nostra solida ormai relazione con il collettivo Il Nodo Solidale per portare anche una proposta di soluzione dalle comunità o comunque di cammino verso una soluzione alternativa alle comunità di Huatulco, dello stato di Oaxaca. E quindi vedremo questo Semillas de Libertad, che è stato fatto da Eleonora e Matthew del Nodo Solidale, che è molto, molto carino, molto interessante e parla di un recente percorso di autodeterminazione di alcune comunità indigene. Mentre noi, insieme ad Ana e insieme a Giulio Napolitano, vedremo anche un po' la questione dell'estrattivismo in Basilicata e come colpisce le comunità del sud, appunto del sud Italia, questo attacco frontale da una parte dell'ENI, dall'altra della Total, che comunque stanno distruggendo questo territorio, lo stanno inquinando e non credo vogliano smettere, quindi è giusto che venga e ci si informi anche rispetto a delle cose che non sono solamente esotiche, come l'attacco all'estrattivismo, ma che sono anche in Italia, anche sotto i nostri occhi. Allora, per fare chiarezza con chi ci ascolta, l'estrattivismo quali materie riguarda? Ma in realtà nella lettura che noi abbiamo sviluppato, un po' ereditandola da alcune letture latinoamericane, secondo noi l'estrattivismo è il sistema attraverso il quale il capitalismo sta invadendo i territori in questo momento. Secondo noi le precondizioni per questo attacco sono appunto l'impunità, la corruzione e un ruolo forte dello Stato, che cambia le leggi in favore delle corporation e che al momento opportuno reprime senza troppi complimenti. E in tutto questo noi vediamo una devastazione territoriale, addirittura in alcuni spazi c'è proprio un ridisegnare le geografie in favore del commercio o della produzione. E tutti questi fattori secondo noi poi generano delle conseguenze, che sono il cambiamento climatico da una parte, le grandi opere dall'altra, varie devastazioni che poi in realtà non colpiscono solo alcuni territori, ma sembra ormai un attacco sistemico. Una volta sembrava esotico parlare del Latin America e dire vabbè, però lì è il sud globale. Però anche da noi ci sono delle zone dove ormai l'attacco è in ogni paesino. Ti chiedevo riguardo al petrolio, altre materie prime come metalli, come gas, queste materie qui. Guarda, per quello che riguarda la Basilicata, sì, stiamo parlando di petrolio. Per quello che riguarda la comunità messicana di cui parliamo, in realtà è un processo di turistificazione della costa che li ha spinti sulla montagna e adesso si scopre che la montagna ha dell'acqua e quindi serve l'acqua per un sistema di microdighe, per le miniere e quindi ovviamente questo progetto di autonomia è un po' minacciato, però ne parleremo e capiremo come in realtà la resistenza continua abbastanza alla Ecco, gremaglia. in questo senso come si stanno auto-organizzando le comunità? Insieme al Nodo Solidale parleremo di un progetto molto specifico di un'organizzazione che si chiama Codedi, che conta ormai più di 46 comunità che fanno i loro lavori collettivi, che sono obbligatori, li fanno in questo posto che si chiama Finca Alemagna, che è un centro di, è come immagina un'università della terra, dove a rotazione si dà una mano, ma anche a rotazione si impara. Quindi ci sono scuole auto-organizzate, c'è un centro di agroecologia, immagina che si possono anche produrre mattoni, infissi per la casa. È un sistema di auto-organizzazione e di autonomia che tocca vari punti, dalla salute all'educazione, all'agroecologia, quindi al cibo. Ed è vicino Santa Maria di Huatulco, a sud dello stato di Oaxaca. È un processo molto interessante, il documentario che hanno fatto i ragazzi del Nodo è anche molto carino, nel senso con le sonorità di quei luoghi e con i protagonisti che hanno creato negli ultimi 4-5 anni questo progetto. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, troverete, vabbè, le informazioni sia sul Facebook di Recommon, che ovviamente è Recommon, e sia su quello del Nodo Solidale e anche su quello del The Tour, che è il posto che ospiterà le proiezioni. Il giorno è sabato a partire dalle 8 e un quarto, sarà prima l'aperitivo e poi la serata. Il nostro sito è www.recommon.org. E la maggior parte dei materiali sono scaricabili gratuitamente, anzi tutti, quindi ci sono. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Estrattivismo, Volti e storie della distruzione tra Italia e Messico, a cura di Recommon e il Nodo Solidale, sabato 2 marzo 2019 a Roma al Cine de Tour. Un saluto e un ringraziamento a Filippo Taglieri di Recommon. Filippo, un abbraccio, in bocca al lupo e Grazie, alla prossima. un Ciao. abbraccio, un saluto a tutti e a tutti. Ciao ciao.